però secondo me all'incontro delle settimanali delle psicologhe dobbiamo andarci nel due insieme. Ma questo è in dubbio, cioè, ma tu, infatti io... E poi è un mese, non è una settimana, per cui avrete tempo. Sì, ma allora testa mia fatti capanna, come si dice, no? Allora, testonizzandoti, concentrati sulla strada, arriva, che così poi mi aiuti a spremerla anche a spremerle anche su temi che sono prossimi alla tua ricerca, no? Con l'error day e quant'altro. Va bene. Sì, perché il tema dell'errore è fondamentale anche per. Anzi, mi piacerebbe tantissimo sapere alcune cose. Intanto chiedigli per cortesia cosa ne pensano dell'errore. Intanto la mettiamo lì come domanda da fare, che magari la facciamo quando arrivi anche tu. Per il momento io intanto te le introduco. Abbiamo qui protagoniste, ospite, super mega galattiche ospite della 143esima puntata del Coxo, che vede anche il ritorno del W Original Pasquini. Abbiamo la dottoressa Denita Bace, la dottoressa Maria Letizia Rotolo e la dottoressa Licia Vicinelli. Ciao. E Pasquini lì in mezzo, il beato fra le donne, naturalmente. E che donne, cioè, voglio dire, tre psicologhe in un colpo. Chissà che non esci raddrizzato finalmente. Ma chi lo sa. Va bene, Clelia, quindi adesso che sai, so che arriverai. E ma intanto... io non vedo l'ora, cioè non sai quanto mi manchi questa cosa, perché tu non lo sai, però in realtà stare in radio è un'altra roba. Ti senti proprio unita al mondo che ti ascolta, che non, anche quello che non ti ascolta, anzi soprattutto quello che non ti ascolta. A questo proposito ne approfitto per salutare Fuga Perat, chiama Giffo. Giffo da Vicenza, che fine avrà fatto? Ma sarà morto. E Riccardo Lolli scrive: ma come? Ma come chi? Ma come? Cosa? Ma come? Come perché? Dire? Ma perché c'è Pasquini in radio? È vero, come? Come manca sei qui? Ma comunque adesso. È perché ci sono le psicologhe. Io Clelia al telefono che sta arrivando. Stefano qui, entriamo nel vivo. Vogliamo fare subito un piccolo cappello introduttivo rispetto a questa meravigliosa attività che le nostre ospiti ci stanno portando? Sì, lo sì. Fa. Eccoci. Eccoci qua. Grazie mille, grazie per averci ospitati. È un piacere essere qui con voi. Siamo anche molto emozionate, per cui. Del resto non succede tutti i giorni che essere in radio, sì. Appunto. Essere ascoltate da un po' di gente. Dunque, anche quest'anno, come l'anno scorso, dopo il successo della prima edizione, abbiamo organizzato la seconda edizione della Primavera di Informazione Psicologica, che si tratta di un evento grande, una campagna provinciale di informazione psicologica per promuovere il benessere psicologico, appunto, e prevenire il disagio emotivo, psicologico, insomma, nelle persone. È un evento che durerà un mese, quindi dall'1 al 31 maggio, nel quale ci saranno 50 eventi, quindi 50 conferenze, seminari sui vari temi della psicologia, sui vari temi della salute, salute psicologica, appunto, sui temi delle emozioni, piuttosto che dell'alimentazione, piuttosto che della genitorialità, eccetera, eccetera, piuttosto della fecondazione assistita. Delle dipendenze, quindi insomma diciamo che si vanno a toccare a 360 gradi tutti i temi della salute psicologica e di interesse appunto della popolazione. Inoltre sono coinvolti 35 psicologi, per cui insomma psicologi, psicoterapeuti. Io ne conosco ben tre di quei 35. E tre siamo qui appunto presenti. Si darà, oltre appunto questi seminari e conferenze gratuiti, si darà l'opportunità a chi ne farà richiesta di usufruire di un colloquio informativo gratuito, in modo da appunto da avvicinarsi, avere maggiori informazioni appunto sulla psicologia, su com'è un consulto psicologico, perché c'è ancora un po' il tema che andare dallo psicologo, insomma l'idea che andare dallo psicologo bisogna essere matti. Certo. E invece non è così. Scherzo, naturalmente. Non è così, insomma. Vediamo che la figura dello psicologo è utile, può essere d'aiuto nei momenti di crisi, in momenti di vita difficili che ognuno di noi attraversa, insomma, o perlomeno almeno una volta nella sua vita. Non basta più andare dal prete. È non basta più andare dal barbiere. Dal barbiere, no, effettivamente anche dalla parrucchiera, dal pedicure, no? Dici, mi ripiglio un attimo, sì, la massaggiatrice. Diciamo cinese. Che quel tipo di aiuto può essere utile, per l'amor di Dio, aiuta tante persone, ma a volte non basta. Quindi ecco che subentra la figura di uno specialista che in maniera un po' più professionale, un po' più, come dire, anche tecnica, se vogliamo, possa aiutare, orientare appunto a capire il nocciolo del problema e anche, insomma, trovare una soluzione a quello che può essere la difficoltà o il momento di crisi di ognuno. Ho una domanda, ma voi psicologhe quanto analizzate fuori dal vostro studio? Cioè, quando incontrate, no, uno a caso, tipo me. Beh, no. Io niente. Si può lavorare grazie. Ah, sì? Quindi... No, per voi stesse. Cioè, quindi è una dimensione dalla quale si può entrare e uscire, questa dell'analisi, okay. Giustamente. Beh, io, ad esempio, ho una formazione psicanalitica, ma questo mi ha aiutato a prendere assolutamente le distanze da quello che è la mia dimensione lavorativa e la dimensione che è al di fuori. Ho capito. E quindi al di fuori, cioè, per cui ti rilassi e te ne freghi, insomma, sì, del linguaggio dei, no? No, sì. Invece per quanto mi riguarda non è così, perché comunque a prescindere da tutto, per tu invece mi hai già psicanalizzato al primo sguardo, ma insomma. Non psicanalizzato, okay. Ecco, diciamo che l'occhio è sempre l'occhio attente clinico, per cui puoi ignorare ma non è che sfugge, ecco. A questo proposito, sì. Visto che in assenza di Stefano mi sono impasquinata io, avrei una curiosità, ecco. Ma in quanto donne si riesce con lo primo sguardo a capire meglio un uomo se fa le cose, cioè se, insomma, se ti prende in giro oppure no? Insomma, uomo, esatto. Se è un diciamolo. C'è un workshop su questo? Perché no. Ma guarda, c'è. L'anno prossimo posso prenotare. Vivere a cuore aperto. Ah. Allora farei così. Mindfulness e self-compassion ci possono liberare dal senso di questo. La sindrome della principessa triste, dall'amore immaginato all'amore reale. Questo è, sì, per te, guarda. Ah, è vero, il 18 maggio. Ok, dai, me lo segno. Allora facciamo così. I poi tempi invece, radiofonici, Branino, e poi ritorniamo e approfondiamo qualcuno di questi appuntamenti. Andiamo un pochino più nello specifico a capire che cosa c'è in questo maggio che ci aspetta. No, che sono un miliardo. Appunto. Sono 50. Quindi un po' di ne vedremo qualcuno, okay. E capiremo, no? Molto bene, certo. Va bene. Brava. Grazie. Prego. Stai ascoltando Coxo Spaziali. Think you'd name you something? Well, I've got plenty. You're the one who's missing out, but you won't notice until after 5 years. If you live that long, you'll wake up all loveless. I dare you to take me on. Love, it's up. say they want, then they can't endure. Splendidi gorgheggi di Björk insieme a Pasquini. Io e Björk siamo culo e camicia. Siamo in diretta su Radio Città Fujiko 103.1, è la 140esima puntata del Coxo, che non riuscirò mai a dire il giusto numero, però potrò dire giustamente che siamo insieme a tre super mega galattiche ospiti, nonché partecipi al programma Primavera di informazione psicologica, che avrà luogo dal 1 al 31 maggio e che ha un calendario di tantissimi incontri. Si tratta di 50 più incontri, di uno al giorno, no, hai capito? È incredibile. Ed è un'attività che è promossa, cioè si tratta di psicologia e veramente si può spaziare in tutte le direzioni. E poi sono dovunque, ad Anzola, a Casalecchio, al comune di Valsamoggia, che è un comune nuovo, fra l'altro secondo me sarebbe già da psicanalizzare il comune di Valsamoggia in sé, San Lazzaro e poi naturalmente Bologna centro, eccetera. Rispetto alle edizioni precedenti sono cresciuti il numero degli eventi, mi pare. Anche il numero di pazienti. Allora, l'anno scorso l'evento è durato di più, quindi dal 15 aprile al 31 maggio, quindi erano 45 giorni. Cavolo. Ed erano in tutto 70 eventi. Ah, okay, quindi quest'anno abbiamo deciso di concentrare proprio all'interno di un mese, quindi gli eventi sono 50, in proporzione di più, però. Per non aver bisogno noi dello psicologo. Per non esaurirci troppo lungo. E allora, come anticipato, i partecipanti più o meno sono gli stessi rispetto all'anno scorso? I partecipanti no, quest'anno abbiamo almeno una quindicina di colleghi in più nuovi, quindi diversi. Ed esordisci tu, Denita, giusto? Sì. Con genitori in regola, aiutare i bambini a capire e accettare limiti e regole. Anche quello dovrei venire a sentire. Leggi un po' più veloce, che sennò rischiamo di capire. Ho detto genitori in regola. Due punti, anzi, ciao Yumi, ciao Nicola, che mi hanno appena scritto, che mi ascoltano. Aiutare i bambini a capire e accettare limiti e regole. Cosa ci racconti? In effetti, allora, spesso noi incontriamo i genitori che si trovano in difficoltà a gestire i figli, come dire no, i sensi di colpa, e spesso i bambini in alcune situazioni o approfittano appunto dei sensi di colpa dei genitori, come ben sappiamo. Oppure magari soffrono delle regole estremamente rigide di alcuni genitori, per cui questo incontro in breve è dedicato proprio, è aperto a tutti i genitori o a chi vorrà diventare genitore, sta per diventare genitore, per essere appunto una serata di confronto su come dare delle regole, sull'importanza delle regole e sull'importanza di non avere rigidità nelle regole, in maniera da creare quell'equilibrio, seppur molto difficile. Certo, un po' all'italiana, no? Le regole ci devono essere, poi però ogni tanto si possono un po' piegare, diciamo. Sì, la flessibilità e poi certo, capire che ok, che mettiamo delle regole ai bambini, ma se le regole non le rispettano gli adulti, non disastro. Possiamo certo pretendere che le rispettino i bambini. Infatti, tu un po' come in Italia. Si pretende. Tu come ti trovi qua in questo paese? Dai, tu è da tanto che sei in Italia. Sì, io è da tanto che sono in Italia, okay. Da quando ho 16 anni. E allora, ormai le regole anni, le hai capite. Le regole le ho capite, le ho interiorizzate e le rispetto. Brava, tu sì che sei una cittadina modello. Brava cittadina. ho capito. Quindi poi ci sono tanti altri eventi, un certo. Altro evento importante appunto, che ha sempre a che fare con i bambini, quando la cicogna smarrisce, quando la cicogna smarrisce la rotta. È la fecondazione assistita eterologa, questo evento è un po' particolare, nel senso che io ho voluto coinvolgere altre figure professionali, cioè quindi siamo in tanti che facciamo, perché lo psicologo è sottovalutato anche come figura, in realtà può collaborare con medici, con avvocati e quindi con grafici è vero, con... no, perché il lavoro del grafico adesso non c'entra niente, sì, ma il lavoro del grafico è spesso un lavoro un po' psicologico. Comunque in questo caso vogliamo analizzare un tema di cui si è dibattuto tantissimo negli ultimi mesi, cioè la fecondazione eterologa, in particolare la GPA, che è la gestazione per altri, comunemente detta utero in affitto. Negli aspetti psicologici, quindi mi affiancherà una collega di Padova, Amalia Prunotto, è un famoso psicanalista che è direttore in una rivista importante che si chiama Psicoterapia e Scienze Umane. L'inizio sarà del professor Framini, che è un famoso ginecologo, proprio nella fecondazione assistita forse più importante d'Italia, e poi ci sarà un intervento del presidente dell'Arcigay di Rimini e dell'avvocato Francesca Ursoleo, che conoscerà, certo, che è esperta anche lei di diritto. E noi vorremmo parlare in particolare degli aspetti psicologici delle varie tecniche della fecondazione eterologa, quelle permesse in Italia. Certo, perché l'Italia non è un paese particolarmente permissivo in queste cose, no, e quali assolutamente si possono effettuare soltanto queste tecniche sulle coppie sposate o conviventi, non le donne single, non coppie omosessuali, quindi non maschi eccetera. E quindi un po' spiegare quali sono le varie tecniche, soprattutto qual è il percorso emotivo, psicologico, il peso, cosa raccontare al bambino che viene, se raccontare la verità o mantenere il segreto. Diciamo un po' tutto, una riflessione su questo cammino che è estremamente difficile, perché alcune coppie, non parliamo di quelli che poi vanno all'estero a fare la GPA, si trovano veramente in una situazione di isolamento, perché in realtà secondo me è molto importante un percorso psicologico, perché aiuta ad aprire delle barriere, aiuta ad essere, a vedere questa cosa in maniera più meno restrittiva, cosa che è un po' dovuta a una bruttissima legge italiana, la legge 40, che ci ha praticamente nei confronti del mondo, cioè, abbiamo fatto la figura, una bruttissima figura proprio, e quindi diciamo, non è che sia un po' di parte, però siccome un po' la fecondazione assistita eterologa adesso è permessa, ma ci sono un po' delle restrizioni in Italia, si parla anche un po' di quello che è il mondo italiano, il mondo straniero, insomma, e comunque perché queste tecniche sono anche molto costose. Però gran parte del nostro percorso in questa serata è sul cammino psicologico e poi un po' sul chiarimento delle varie tecniche che farà il professor Flamini, e poi ci sarà si parlerà di omogenitorialità con Marco Tonti di Arcigay. Quindi effettivamente questa coralità di professionisti per trattare un evento che in effetti si colloca in maniera molto viva nel tessuto sociale, sì, e che quindi insomma offre strumenti per un dialogo il più completo possibile, sì, sì, e sì, questo solo nel secondo giorno. Che cosa ci aspetta ancora per tutto maggio? Dopo si parte con gli attacchi di panico, come paura, panico e fobia, come liberarsi in tempi brevi quando ti trovi a leggere la Costituzione italiana, paura, panico, allora e questa sei tu, Licia Vicinelli. Sì, è un incontro che si terrà il 5 maggio alla Mediateca di San Lazzaro, nel quale illustrerò una tecnica che ha dato prova di essere molto efficace. La tecnica dello schiaffone. E no? In tempi brevi. Hai un attacco di quasi, no? Più o meno, la velocità ci della comprensione è la stessa. Ah, okay. Ecco. Una tecnica che permette di superare appunto le fobie, gli attacchi di panico, anche le fobie sociali, in tempi brevi, mediante un cambiamento di prospettiva rispetto a quello che le persone considerano come qualcosa di temibile. Non svelo altro, venite a vedermi se siete interessati. E quindi con questo ci vediamo il 5 maggio, giusto? Esatto. Perfetto, quindi è solo un'anticipazione, poi nel corso delle puntate del Coxo di maggio magari ci risentiamo, così ci date qualche altro suggerimento su che cosa è più vicino, insomma. Comunque poi da domani su www.coxospaziale.blogspot.com tutti i link per andare ad approfondire questa meravigliosa iniziativa che, per fortuna, per anche il vostro impegno, anche quest'anno arriva a primavera. Ce ne sono alcuni fantastici. Autostima e assertività, come costruire e preservare l'immagine di sé in una società narcisista. Io dovrei andare la trappola della felicità, come imparare a riconoscere le trappole mentali, smetterla di tormentarsi e godersi la vita. Facciamo così, visto che insomma ci sei tu, ci sono loro, e io intanto verifico che il cellulare qui davanti sia, e quindi butto lì un 333 180 94 94 per approfittare di cotanta meraviglia di ospiti del Coxo e per fare qualche domanda su questa iniziativa oppure anche su altre cose. 17 maggio, vittima della dieta, l'equilibrio attraverso il piacere. Ripeto, 333 180 94 94 volevo dire un'altra cosa. Sì. Me la sono dimenticata. Te la devo ricordare. Non mi io. Guardare con quegli occhiali che mi dimentico le cose. Ah, no, io non ho fatto nulla. Va bene, allora va bene. Ci rivediamo. Sì. Stiamo andando a casa? No, stiamo andando nella meravigliosa pubblicità delle 7:30. Ah, di già, che bello. Di già, se non mi vedevo proprio quella cosa da 30 Abbiamo secondi. Abbiamo tutti gli orologi disincronizzati. Questo fai 27, quello fai 25, non io faccio 30. Non ti dico quelli tre di qua, però perché in realtà il presente è un tempo, uno spazio-tempo rizomatico. Dice, il GPS dice 2 minuti. Ah, vedi che lei sì che è preparata, giustamente, lei è... seria. Abbiamo 2 minuti. Abbiamo 2 minuti. Approfitta. Perché la cosa importante che non abbiamo detto è che questo evento è tutto gratuito. Ecco, hai fatto molto bene a dirlo, perché poi i bolognesi sono notoriamente dei gran plumoni, per cui è bene che sappiano che possono incontrare delle psicologhe professioniste, oltre che, no, non lo dico, e tutto gratuitamente. Sì, così sia d'amblè. Partecipazione ai seminari e alle conferenze, sia appunto il colloquio individuale è ovviamente gratuito, per cui e anche l'evento non è sponsorizzato da nessuno, ma dipende dal contributo volontario di tutti i 35 psicologi che hanno aderito. Il contributo volontario vuol dire che noi ci siamo occupati delle spese per i volontari. No, è abbastanza incredibile questa cosa. Poi vabbè, sappiamo tutti che gli psicologi comunque sono tutti benestanti, no? Voi siete tutti figli d'arte. Comunque mi è tornata in mente la domanda, ma a questo punto la facciamo dopo. Magari segna, c'è ancora un minuto. No, perché la domanda è un po' più complicata. Okay. Va bene, niente, è scattata la mezza, a tra un attimo. A tra un'ora? Coxo Sacra. Coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale. E rieccoci, 140esima puntata di Coxo Spaziale in presenza del co-conduttore original di Stefano W Original. E con tre meravigliose super mega galattiche ospiti. Che mi hanno già sgridato. Perché? Perché brave ragazze comunque. C'è qualcuno nel pubblico che dice che sto facendo dei commenti sessisti, e ha ragione, ma perché non conoscendo la mia storia la mia storia di femminista, allora non così. No, sto regredendo un attimo come al solito, insomma. Sì, hai ragione, infatti mi confondo che ultimamente avevo sempre co-conduttori così seri e precisi, infatti, che stavo regredendo. Qua siamo, ragazzi, regredendo un po' anche tu. Vabbè, ma del resto. Ma invece una cosa che non regredisce mai è lui, l'inossidabile. L'angolo della menzione. Olè. Ti era mancato. Moltissimo. Posso cominciare io o no? Sì, dai. Adesso, tantissimo. In questo momento. Ma proprio momo. Sì, sì, adesso, tipo alle 7:31, adiacente riapre nella nuova sede espositiva in Vicolo Santo, no, Spirito Santo 1/B, nel pieno centro di Bologna. Per questa occasione cura l'installazione Se il cielo fugge di Irene Fenara, che si avvale della collaborazione di Francesco Privato per le sonorità che accompagneranno il visitatore all'interno dell'opera ambientale. Yeah. E tra un po' dovrò mettere un doppio stacco, perché in realtà abbiamo una menzione con Telefonica. È qui con noi Daniela Tozzi, una delle fondatrici di Adiacenze, che si è staccato un momento da questo momento di festa per raccontarci come va. Ciao ragazzi. Ciao Daniela, benvenuta al Coxo. Scusate, mi sto... Spostati. Già ubriaca? No, io sono ancora molto sobria. Salutami Irene e dille che mi dispiace che non sono potuto venire, ma ero impegnato. Ma tu devi venire adesso, appena finisce la puntata, devi venire qui. Ma tutti quanti ci veniamo, scusa. Siamo già lì di corsa. Io ho già il cappotto in... Sì, e poi c'è anche la questione che comunque è un evento che va avanti anche in serata, giusto? Perciò è normale che Daniela non sia ancora brilla. Ah, ok. No? Cioè che si tiene un po' alla volta, anche per bere anche con le altre persone che arrivano più tardi. Esattamente, si beve sempre un goccino piccolino perché c'è tanta gente, quindi bisogna bere con tutti. Appunto, tutti a padrona di casa. E com'è questo spazio nuovo? Sei contenta? Siamo molto contenti, lo spazio è molto bello, è grande, molto più grande di quello che avevamo in Piazza San Martino, e faremo diverse cose nuove per noi. Infatti, oltre allo spazio espositivo, ci sarà anche una parte che di libreria/bookshop, dove avremo dei libri di autore, quindi di artisti vari, e ci avvaliamo della collaborazione con la casa editrice Gerz, che è una casa editrice indipendente di Genova. E poi andiamo avanti con la nostra attività espositiva, e noi siamo davvero felici perché questo spazio, oltre ad essere enorme per noi, perché sono 150 metri, ci permette di fare tutte le cose che facevamo un po' a spizzichi e bocconi, tipo le performance, tra cui anche quella di Fedra. Vabbè, ma anche dei fratelli Brosch, poi di Rita Felicetti, curate da Silvia May, tutte persone che salutiamo tanto caramente. Assolutamente. E poi insomma, tra un po', cioè, veniamo a salutare di persona te, ma anche Amerigo Mariotti, giusto? Sì, Amerigo, che è il mio socio, che purtroppo non può parlare con noi perché l'ho lasciato dentro con gli ospiti e con chi ci è venuto a trovare già adesso, e noi siamo in due e siamo tutti e due qui dentro in mezzo a questo delirio. E allora, con tutti noi e con tutti quelli che vorranno, ci si vede sicuramente dopo a conoscere questo bellissimo spazio e ritrovare le vostre attività. E poi per il futuro sappi che il Coxo è sempre molto interessato a sapere quello che fate. Sì, intanto fino al 17 di maggio c'è la mostra di Irene Fenara, e il 17 faremo la chiusura con un live di Francesco Privato. Bene, bene, bene. Ah, e noi vengo al finissage / chiusura. Grazie Daniela. Grazie a voi. Ciao, tra un po'. Ciao. Ah, interessante questo libreria/bookshop. Libreria significa bookshop, significa libreria. Non ho capito hai sta ragione. Barra. No, scusami. No, sono io che ho qualche forse problema. Forse lo slash della traduzione. Esatto. Italiano inglese, no? Italiano English / inglese. Molto bene. Un po' più tardi, cosa succede? Un po' più alle 22? Tardi sempre oggi. È sempre oggi, sì. Alle ore 22, Bologna Violenta più Mar Nero a Zaza Bar a Carpi. Ah, e qua non c'è niente da aggiungere perché abbiamo un contributo sonoro da un precedente album di Bologna Violenta per rendervi conto di che sonorità ci saranno. www.bolognaviolenta.com. Cioè, in Giappone si osano praticare operazioni di trapianto impensabili in qualsiasi altro paese del mondo. Costa circa 3.000 euro e i rischi sono a totale carico del paziente. Portata entro le 24 ore dal decesso a uomini giovani e vigorosi morti prematuramente. La sanguificazione dei corpi cavernosi che provoca sia l'irrigidimento che il successivo coagulo atto a rendere stabile l'erezione della cannula urinaria. Qui la religione del piacere non è riservata ad ambienti elitari, ma è connaturata a tutti gli strati di qualsiasi sfera sociale. Come lo conosci? È finito. Conosci i brani di Bologna Violenta? Che sai che mi dici? È finito? No, non lo so, è era una domanda in realtà. È finito? È finito? È, no, è finito. Cioè no. Sì, ce è finito sì. Lui, ma noi continuiamo con l'angolo della menzione. Ovvero venerdì 29. Venerdì 29, cioè domani alle 18 a Movieda Os Bologna, ci sarà un nuovo evento firmato Garage Produzioni. Sarà un'intera giornata di musica e workshop negli spazi El Garage. Esatto, proprio così si pronuncia. Vabbè, alla spagnola. Alla spagnola. Che è un fornitissimo studio di produzione e service. Che in spagnolo si dice servizio. Servizio audiovisivo nel cortile delle arti dei mestieri di Oz. E Oz come si dice? Oz. Yeah. Domenica 1 lo devo leggere io o lo leggi tu? No, Cucciarina? Lo vuole leggere, dai, diciamo. Vado, leggo io. Domenica 1 maggio, ore 15, l'undicesima edizione del Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna, Il diritto alla scarpetta. Yeah! In via Salgari, Pilastra, Bologna. Riportiamo qualche suggerimento tratto dal manuale del perfetto zuppante. Vieni con la ciotola e il cucchiaio da casa. Vieni in bici, a piedi, in bus o in treno. Separa correttamente i rifiuti negli appositi contenitori che troverai lungo la strada e nel parco. Ultimo ma non ultimo, sorridi. Yeah! Ne aggiungo uno anch'io, gusta, perché le zuppe sono buonissime, ogni anno migliori. E poi invece, sempre per il primo maggio, chi invece vuole andare un po' più in collina? Lo dico io? No, o alle 16. Chi manca? No, chi manca? Manchi tu, no, lo devi dire tu. No, va bene. Alle ore 16, Mr. Lucky, lo sciroppato all'agriturismo Dulcamara. L'ultimo appuntamento della rassegna Dulcamara Circus, anzi, per l'ultimo, sono un po' dislessica, è giusto che mi sia capitato il mio scritto male, va bene. Per l'ultimo appuntamento della rassegna Dulcamara Circus, Nando e Maila, gli organizzatori, nonché omonima compagnia di circo bolognese, propongono lo spettacolo di circo acrobatico di Mr. Lucky, un susseguirsi di destrezze strabilianti in un'escalation fenomenale che culmina svelando il vero segreto della vita. Per scoprire che cosa vi attende prima e dopo lo spettacolo troverete da domani un link su www.coxospaziale.blogspot.com. Yeah. E l'abbiamo finita? No, perché in realtà c'è questa che è importantissima, è permanente. Da quanto dura? Da quando? Fino alla fine di maggio ed è un crowdfunding chiamato 20% per Elia, te lo ricordi Elia? È certo che me lo ricordo. E chi non si ricorda Elia lo conoscono tutti, il biondino con gli occhioni azzurri che trovavamo in giro un po' ubriaco al Pratello spesso e volentieri, altre volte al Sesto Senso mentre installava una mostra, esatto, dovunque andavi lo incontravi. Poi c'aveva sempre sti studi, sti posti meravigliosi. Sì, infatti aveva lo studio in Strada Maggiore. E dunque, per pubblicare un libro su di lui, su Elia Greggio, pittore scomparso nel 2005, amici di Bologna e di Adria hanno organizzato un crowdfunding. Se avete opere o ricordi di Elia, mandateli per email a archivioelia@gmail.com e naturalmente troverete il link per appunto produrre questo essere prodotto al crowdfunding di questo volume che pubblicheremo in agosto. E scade proprio a fine maggio. Scade a fine maggio, sì, useremo produzionidalbasso.com. A questo punto ci sta un branino, sì, ci sta un branino. Facciamo questo che è tanto carino. Tanto carino. Sua figlia è bruttissima. Va bene così? No, ho sbagliato. No, scherzo. Mi è arrivato, volevo dire questa cosa, mi è arrivato un dalla Svizzera, no, in realtà da Danzica, mi è arrivato un SMS in questo momento dicendo: "Ciao Stefano, lots of hugs from Danks, Poland." Ma non era la menzione di Reto Sì, Alex e Reto, cioè loro sono a Danzica in questo momento e dice: "Greetings from the Coxo listener", dice, saluti ai nostri ascoltatori di Coxo e amici di Bologna. Dovreste andare immediatamente, tipo adesso, su www.jamart.eu e praticamente fare una jamming session, penso in chat, non so bene se bisogna spogliarsi o no, per parlare della situazione degli artisti nella società oggi. Funziona fino al 30 aprile. Ah, ok, quindi baci, non serve che Alex, ci andiamo Messner. Adesso che abbiamo un sacco di cose chiedere, no, spremere infatti, per benvenire le nostre tre ospiti, appunto, scusami. Sì, esatto. Se no mi dici, io lo cerco, cosa? Ma no, sto tentando di, non lo so, sto facendo un po' di jamming così alla boia di un Giuda, tanto per cambiare. Però no, è interessante questa cosa che un gruppo di artisti si trova ad Anzica per discutere del ruolo dell'artista nella società, ma secondo voi, voi che siete psicologhe, ma e noi siete lo facevamo bene... anche qua a Bologna, eh? Ah sì? Sì? Non c'era bisogno di andare a danzare, cioè, sarebbe bello farlo ovunque e poi condividere il tutto in qualche portale informatico, così da vedere quali sono i tratti caratteristici. Mamma mia, caratteristici sono sono importanti. Sì, importanti. Molto bene. E dunque? E dunque io sin qui ho avuto telefonica rovente, cercavo di riprendere la linea con Clelia, che però è in un posto dove non prende, e visto che non ce l'ha fatta purtroppo ad arrivare, è da 10 sottoterra, no? Probabilmente okay. Sì, ah, forse c'è una maniglia che gira, prova a vedere, magari è Clelia. Una maniglia che gira? È la Clelia? No, c'è uno Stefano migliore. Ah, no, non è la Clelia. Per cui posso andare, che, cioè, chiamo lui. No, vabbè, se vuoi, prova. Intanto, comunque, all'inizio della puntata, Clelia mi aveva chiesto di chiedere alle nostre carissime ospiti come secondo loro, qual è il ruolo dell'errore, cioè come l'aveva posto all'inizio, insomma, di parlare dell'errore. Cioè, che come si interpreta psicologicamente l'errore dal vostro punto di vista, se c'è una corrente, perché in realtà Clelia Sedda è fondatrice della giornata mondiale dell'errore, altrimenti noto come Error Day, è arrivata la terza edizione qui a... Scusate, ringhio contro Pasquini. Ah no, era mia figlia che mi mandava la prova che stavano ascoltando Coxo Spazzino. Mi sembra giusto, non era un errore. Così. Ma allora, questi errori esistono? Non esistono? Sono sbagliati? Sono da demotizzare oppure no? Bello, gli errori sono sbagliati. Gli errori sono sbagliati, è proprio bello. Ma di fatto in una società che richiede sempre il massimo della perfezione, ti richiede sempre di essere perfetti, di far tutto perfettamente, di andare tutto bene, insomma, dà proprio il messaggio che non si debba assolutamente mai commettere degli errori. Ma siccome, no, errare è umano, no, quindi lo dice anche... qualcun altro, l'ha detto qualcuno prima di noi, commettere degli errori è la cosa più normale e naturale che possa succedere a tutti noi. Quindi per imparare, ma anche dobbiamo pensare che è anche normale, e dobbiamo pensare che gli errori ci permettono anche di rinunciare alla perfezione, che è una cosa assolutamente negativa. La perfezione non esiste solo nel Rinascimento no. Probabilmente neanche. Nella ci porterebbe a una vita molto noiosa, ma lo sai, veramente sono dispiaciuta che quasi come Clelia, che non è qui, perché effettivamente lei ha introdotto proprio la sua presentazione di sé come co-conduttrice proprio utilizzando questo tema, cioè nel senso, quando ero piccola volevo diventare perfetta, sbagliavo sempre e allora ho preso altre vie. Vabbè, insomma, comunque lei lo diceva in maniera più simpatica e articolata. Ma e voi, che voi psicologhe invece, cioè i vostri pazienti si aspettano una sorta di perfezione rassicurante da quello che esce dalle vostre bocche, oppure non lo so, com'è questa cosa? Quello che io dico sempre ai miei pazienti è che sono un essere umano, come tale posso sbagliare, cerco di fare del mio meglio, per cui dice ai pazienti di essere pazienti anche con te, però che sono una persona, come tale non posso essere perfetta, che la perfezione non esiste, e tra i vari consigli che si danno è anche quello, no? Si impara, come diceva Alicia, per tentativi ed errori, per cui se non commettiamo errori non possiamo imparare. Quindi l'errore è anche un aspetto importante nel processo di apprendimento. E poi nella carta dei diritti che solitamente insegna alle persone quando parliamo di assertività, uno dei diritti fondamentali è: hai il diritto di commettere errori. Che questo sconvolge un po' tutti, come ho il diritto di commettere errori in una società dove il messaggio è sii perfetto, devi assolutamente essere perfetto, altrimenti non so, non vai bene, altrimenti non sei voluto bene, altrimenti non sei accettato dalla società, eccetera eccetera eccetera. Quindi è difficile oggi combattere questo senso di perfezionismo, visto che il messaggio sociale è sì o devi essere perfetto. Altro aspetto importante dell'errore è che è cadendo che impari a rialzarti. Se no, l'unica volta che sbagli lì puoi rimanere. Adesso io cadi di nuovo, cadi meglio, no? Due domande e non so quale scegliere, perché insomma mi sa che sono abbastanza lunghe entrambe. Però diciamo, la prima, quella che secondo me è più importante, perché per costruire un evento del genere che coinvolge così tanti vostri colleghi gratuitamente, che coinvolge così tante sedi, avrete avuto tantissimo da lavorare a livello di organizzazione. Quando nasce realmente questo evento? Cioè nella vostra comunicazione e progettualità? Beh, ogni diciamo anno. Che si inizia a gennaio, già dopo le festività, quindi dal 10 di gennaio. A dicembre iniziamo a preoccuparci. Ecco, iniziamo a parlarne. A gennaio iniziamo ad essere operativi, perché comunque c'è veramente tanto lavoro dietro, tanta fatica, tenendo conto che poi nel contempo noi insomma lavoriamo anche. Lavoriamo e poi magari ci dividiamo i ruoli, cioè certo. Ognuno si occupa di qualcosa in particolare. Cioè è un lavoro impegnativo. Sì, e per fortuna di collaborazione. E noi ci chiediamo tanto. E da questo punto di vista c'è qualche struttura, qualche istituzione che qui a Bologna vi aiuta, vi è di sostegno, oppure è completamente autogestita? È completamente autogestita, di fatto organizzata dall'Associazione Scientifica Culturale Progetto Psicologia, di cui tutti noi siamo soci. E veniamo comunque sostenuti, in qualche modo anche aiutati, no? Cioè, con il contributo e con il patrocinio. Abbiamo il patrocinio del Comune di Bologna e di tutti i quartieri, quindi Santo Stefano, San Vitale, Borgo Paligale, Porto, Reno. Mi rimane qualcosa indietro, mi dimentico. Altri comuni, Comune di San Lazzaro, e poi Anzola, Casalecchio. E Comune di Valsamozza. Anzola Predosa. Non abbiamo bisogno di psicologi. Non fate mai errori. Siamo voi. Tutti perfetti. Qualche non anno abbiamo. Fa, però io fece ah, sì. Un evento Zola. Ah sì? Sì. Un successone, immagino. sono tutti matti, per cui ormai gliel'hanno data a mucchia a Zola. Hanno detto vabbè, non ci proviamo nemmeno a guarire. Comunque comprende tutti quei comuni lì. Sì, ma non Zola. C'è un buco, no? Tra Casalecchio e la Valsamoggia c'è un buco dove ci sono appunto tutti i matti vanno a confluire lì. L'orgoglio di Pasquini. Esatto. Ci impegniamo che l'anno prossimo Zola fecero molta fatica, ma sì, lo chiedo. Ah, ok. Comunque ci impegniamo, hanno una bellissima sala. Sì, hanno una bella sala. Ok, vorremmo soddisfare la tua richiesta. L'anno prossimo il primo impegno sarà quello di coinvolgere il comune di Zola Predosa. Perfetto. Quindi se Zola Predosa ci ascolta, arriviamo a fare almeno tre seminari. Sì, sì. Veniamo tanto coinvolti. Per me invece quello per riconoscere l'uomo giusto, per favore. Ma c'è, ce l'abbiamo. Quello è il lavoro, no, è il lavoro che devo fare. Amore su di me. Non fa rima con dolore. Allora, sbagliato. Un evento che farò io in prima persona è Ricomincio da capo, come uscire dai copioni e affrontare le trappole di vita. Ah, vedi, il titolo dice poco, ma di fatto durante questo incontro intendo parlare proprio di come trovare anche l'uomo giusto, quindi di come entrare in relazioni, quindi non ritrovarsi, avere sempre le stesse relazioni o relazioni complicate, no? Perché spesso ci si ritrova a dire ma cavolo, ma faccio tanto, cambio città, cambio gente, cambio partner, eppure mi ritrovo a vivere le stesse cose. Ma Denita, quindi una speranza c'è? Certo che c'è. Bisogna individuare gli schemi che mi portano a vivere le stesse relazioni, le stesse modalità relazionali per poter fregarli, tra virgolette, quindi uscire da questi schemi e finalmente incontrare l'uomo giusto. Uomo giusto, se ci sei, esiste, stai ascoltando, scrivi un'email a coxospaziale@gmail.com. In realtà, cioè, è forse anche per questo che avete scelto la primavera, perché queste attività danno speranza. E io me la sento tutta addosso la primavera. Comunque questo evento si fa a Casalecchio, per cui insomma vicino a Zola, e quindi l'uomo giusto, se ci sei, vieni a Casalecchio, viene a Casalecchio. Casalecchio, dove trovi la donna giusta. La donna giusta. Che bello, i due modelli ideali di uomo giusto e donna giusta, che sono fatti? Uno abita a Casalecchio, probabilmente scende a cavallo è il principe a chilometro zero. Esatto. E la donna giusta sei tu, naturalmente, Fedra. Certo. Questo vuoto programmatico, io sto aspettando che si rivelino le pubblicità delle 8 che segnano lo scadere del nostro tempo. Perciò, e tu lì c'hai qualcosa da aggiungere a tua discolpa? Sono colpevole, ho sbagliato, ma a proposito di errore. Forse potremmo chiedere a turno alle nostre ospiti qual è la loro motivazione profonda per cui si imbarcano in questa avventura che fa tanto bene a... Ok, veniamo la prossima volta, necessitiamo di un'oretta. Ma posso parlare? Per cioè, no, basta, tu hai già parlato. No, io ho voluto fare degli incontri diversi quest'anno, coinvolgendo tanti attori, anche nel secondo incontro, che invece si parla di un tema un po' pesante che è la violenza. E quindi si parlerà di un metodo, facciamo sempre al vicolo Bognetti a Sala, che è un quartiere piuttosto violento, no? Piuttosto violento, e coinvolgeremo degli avvocati, un penalista e un civilista, una professoressa che tratta di sempre di giurisprudenza, che tratta i diritti umani, un'altra collega, e parleremo della violenza in tutte le forme, violenza di genere, non solo quindi contro le donne, perché in effetti bisogna tenere conto che la violenza è una violazione dei diritti umani e può essere di qualunque tipo, psicologica, mobbing, stalking, economica, eccetera. E su questo promemoria chiudiamo la 140esima puntata di Coxo Spaziale, ringraziando tantissimo le nostre ospiti di essere state qui, che tanto non faremo in tempo a sentire la mancanza, perché già tra una settimana le rincontreremo. Da lunedì 2 abbiamo già il primo. Certo, sì, da lunedì 2 iniziamo già Sala Silento in vicolo Bolognetti con genitori a regola, aiutare i bambini a capire, accettare limite e regole, alle 20:30. E adesso catapultiamoci nel palinsesto di Radio Città Fujiko. Hell yeah!